giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La gestione del resort di Porto Piccolo Assistiana torna provvisoriamente in mano al Fondo Rilke, proprietario dell'area turistica. Il giudice del Tribunale Civile di Trieste ha respinto il ricorso della società Trieste 2040 contro l'ingiunzione di sfratto, che è dunque diventato esecutivo. Una busta di documenti consegnata all'avvocato qualche giorno prima dell'omicidio e suicidio della coppia di ultra ottantenni a Trieste, assieme al biglietto di scuse ai condomini attaccato alla porta, potrebbe confermare ulteriormente la tesi della premeditazione, sentiti in procura il legale e il figlio della coppia. Oggi sciopero generale proclamato a livello nazionale dai sindacati di base e autonomi. La protesta riguarderà numerosi settori, dai trasporti alla sanità, dai servizi privati al comparto pubblico, compresa la scuola. 8 marzo, festa della donna, numerosissime le iniziative in tutta la regione per far riflettere sulla disparità di genere ancora presente. Un'indagine negli Atenei conferma che anche in regione le donne laureate sono più numerose dei laureati, hanno voti più alti, ma il mondo del lavoro continua a non premiarle. Nel giorno della festa della donna, attenzione anche alla violenza di genere. A Trieste parte un'iniziativa della Questura in collaborazione con la FIPE per formare chi sta dietro il bancone dei locali pubblici a riconoscere le situazioni critiche e fornire gli strumenti di prevenzione e tutela alle vittime. Sempre meno neve sulle nostre montagne, ma Legambiente boccia l'innevamento programmato, una pratica definita non sostenibile solo per garantire la stagione sciistica. Critiche anche per gli impianti e gli edifici montani dismessi o fatiscenti. Sicurezza a Pordenone, pattuglie più spesso e più visibili anche cani antidroga nella zona della stazione, la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per rispondere ai timori dei residenti. Da lunedì Promoturismo FVG riduce il costo degli ski pass e prolunga l'apertura di molti impianti fino al 26 marzo. Gorizia premia le sue eccellenze, il premio Santi Ilario e Tazziano del 2023 sarà assegnato all'ex triplista e allenatore di atletica leggera Paolo Camossi. Buongiorno da Eva Ciucca e Francesca Vigori. In apertura uno sguardo al tempo. Il cielo è variabile su pianura e costa, nuvoloso su quasi tutta la zona montana, poco nuvoloso sul Tarvisiano. Le temperature a Trieste 10 gradi, a Gorizia 7, a Udine 5 gradi, a Pordenone 4. A Tolmezzo e a Forni di Sopra 2 gradi, a Tarvisia e Sappada 1 grado, sul Monte Zoncolan e su Lussari meno 3, a Grado e Lignano 10 gradi. Le previsioni: oggi su tutte le zone il cielo sarà da nuvoloso a coperto, possibili piogge sparse intermittenti, in genere deboli, più probabili ad est sull'alta pianura, sulla fascia prealpina e sul Carso, con quota neve intorno a 1200-1400 metri circa. In pianura saranno possibili foschie, specie nelle ore notturne. Sulla costa ed anche sui monti in quota possibile vento da sud moderato. Verso una nuova gestione per Porto Piccolo, sfratto esecutivo per la PPN, il Tribunale Civile di Trieste ha respinto il ricorso della società che ha in gestione il resort nella baia di Sistiana contro lo sfratto ricevuto dalla proprietà. Sfratto esecutivo è la sentenza del giudice onorario del Tribunale Civile di Trieste, David Di Paoli Paolovic, che ha respinto il ricorso della società Trieste 2040 SRL, nuovo nome della PPN SRL, che ha in gestione il resort di Porto Piccolo nella baia di Sistiana. La società, che sta vivendo una grave situazione finanziaria, aveva ricevuto intimazione di sfratto da parte del Fondo Rilke, proprietario del resort di lusso, dietro cui ci sono una società di investimenti americana, la HIG Capital, e il gruppo friulano delle costruzioni Rizzani De Ecker. È dunque proprio in capo al Fondo Rilke che in questa fase torna alla gestione di Porto Piccolo, nell'attesa che la proprietà identifichi un nuovo partner che subentri alla ex PPN. Si apre una nuova fase anche per i lavoratori di Porto Piccolo, è l'unico commento fuori microfono dei legali e della proprietà al termine dell'udienza, ed è proprio sul futuro dei lavoratori, una settantina quelli stabili, fino a 180 contando anche gli stagionali, che si concentra ora l'attenzione dei sindacati. Matteo Calabrò, segretario regionale della Will Tux Will. Noi chiediamo che ci siano delle clausole di salvaguardia, quindi una garanzia occupazionale rispetto a questi 70 lavoratori e impegnati nel sito, che tra l'altro stanno continuando dando continuità alla struttura quasi in autogestione. chiediamo che ci siano delle garanzie occupazionali per questi lavoratori. Parliamo di garanzie di livelli occupazionali, quindi di continuità lavorativa, dei contratti in essere, dei contratti a tempo indeterminato, senza dimenticare poi tutto quello che è il lavoro stagionale. Massimo Riserbo sulla nuova società che prenderà in gestione Porto Piccolo. In questi giorni circolano i nomi di due colossi del turismo, l'americana Marriott e la francese Accor, ma non c'è nulla di confermato. I sindacati auspicano che la proprietà li informi a questo riguardo in occasione del tavolo tecnico tra le parti che si svolgerà venerdì 10 marzo all'ufficio conflitti del lavoro della regione. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'omicidio-suicidio della coppia di ottantenni a Trieste, marito e moglie vivevano una vita ritirata, specie a partire dalla pandemia. La procura ha incaricato di indagare sullo stato di salute dei due anziani per cercare di capire le ragioni della tragedia, che sempre più sembra una scelta premeditata. Sentiamo. Sembrerebbe l'esito di una decisione premeditata, l'omicidio suicidio di Roberto Fabris e Yolanda Pierazzo, la coppia di 84enni trovati morti lunedì sera a Trieste, nel loro appartamento in via Ghirlandaio. Un'ipotesi sorretta da quanto raccontato da Furio Stradella, il legale di fiducia dei due coniugi, che nel bigliettino lasciato sulla porta di casa avevano pregato di contattarlo. Stradella, che ieri pomeriggio è stato sentito dai carabinieri così come il figlio della coppia residente fuori regione, ha riferito infatti che nei giorni scorsi la signora Pierazzo aveva lasciato nella segreteria del suo studio, in sua assenza, una busta con dei documenti. E poi i due coniugi gli avevano scritto una mail in cui gli chiedevano di esaminare le carte. Carte che ora saranno vagliate dagli investigatori, coordinati dal procuratore Pietro Montrone, che ha risposto all'autopsia sul cadavere di Fabris e dovrebbe chiederla anche per quello della moglie. Accertamenti saranno svolti anche all'azienda sanitaria per verificare il quadro clinico dei due, che dai vicini di casa e dagli abitanti del quartiere sono descritti come persone per bene, molto riservate e che, anche a causa della paura per la pandemia di Covid, negli ultimi anni uscivano pochissimo. Avevo dei clienti del stesso condominio che me li hanno un po' descritti con delle persone molto riservate, a modo comunque. Essendo qua tanti anni la conoscevo la signora, bene, lui non si muoveva tanto, penso non che non usciva neanche tanto. Pochi contatti in ascensore, sulle scale, ma coppia riservata, posto a modo, una roba proprio incredulo, non potevo capire perché è successo questa cosa. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Tre donne sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto solo l'auto su cui viaggiavano e che è precipitata in una scarpata. La conducente ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada, cadendo in una scarpata per circa 50 metri. È successo a Meduno, nel Pordenonese, lungo la viabilità che conduce a Borgo del Bianco, poco prima dell'abitato. A dare l'allarme è una persona che ha visto la vettura finire fuori strada. Sul posto ambulanza ed elisoccorso, il personale medico ha preso in carico le tre donne ferite, due sono state trasportate all'ospedale di Pordenone, la terza con l'elicottero all'ospedale di Udine. È invece ricoverata in gravi condizioni al centro ustionati dell'ospedale di Verona la settantenne che ieri è stata raggiunta da un ritorno di fiamma a San Pietro al Natisone. Viste le sue condizioni è stato disposto il suo trasferimento nel centro specializzato veronese. La donna ha riportato lesioni da ustione di secondo e terzo grado a volto, braccia e torace. A pochi giorni di distanza dal fermo amministrativo di un'unità mercantile battente bandiera Marshall Island nel porto di Trieste da parte degli uomini della capitaneria, un'altra nave, questa volta battente bandiera Panama, è stata fermata nel porto di Monfalcone da un team ispettivo della capitaneria di porto di Monfalcone. Dopo aver ricevuto una segnalazione circa il malfunzionamento di alcuni equipaggiamenti di bordo, gli uomini della Guardia Costiera si sono recati a bordo della General Cargo Panamense ormeggiata a Porto Rosega per analizzare le condizioni di sicurezza relative all'unità. Le carenze contestate al comando di bordo riguardano sia aspetti di natura documentale relativi ai marittimi imbarcati, sia il malfunzionamento di alcune dotazioni di salvataggio e prevenzione incendi, nonché più in generale la preparazione professionale nella gestione delle emergenze da parte dell'equipaggio. A seguito di accertamenti durati circa 11 ore e tenuto conto delle numerose irregolarità emerse, alla nave è stata proibita la partenza sino a quando una nuova ispezione non permetterà di valutare le misure correttive poste in essere perché l'unità possa raggiungere la conformità con la normativa vigente. I sindacati di base autonomi hanno indetto per oggi uno sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private. La motivazione, in collegamento con la giornata internazionale delle donne, riguarda il peggioramento della condizione generale di vita delle donne, a partire dalla condizione di lavoro che investe tutti gli altri ambiti, sociale, familiare e culturale. La SUGI garantirà le urgenze e i servizi minimi essenziali. ERA e ACEGAS, APS e AMGA informano che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali e garantisce le prestazioni minime. Disagi potrebbero verificarsi anche sulla rete autostradale di Autovie Venete. Oggi 8 marzo, festa della donna, una rappresentanza femminile dalla nostra regione parteciperà alla cerimonia organizzata a Palazzo Madama a Roma. Le 12 giovani musiciste dell'Orchestra d'Archi del Conservatorio Tartini di Trieste si esibiranno nella sede del Senato in concerto interpretando musiche di Verdi ed Elgar. Il dono del sangue è importante in tutti i giorni dell'anno, ma oggi l'Associazione Donatori di Sangue di Trieste e l'Associazione Donatori Volontari Sangue Fida Sisontina, in collaborazione con i centri raccolta sangue Asugi, cioè di Trieste, Gorizia e Monfalcone, organizzano una giornata di donazioni dedicate esclusivamente alle donne. Ci si può prenotare ai numeri delle associazioni o dell'azienda sanitaria. Piazza della Vittoria a Gorizia accoglierà questa mattina alle 10 gli equipaggi automontati con solamente personale femminile di tutti i corpi di polizia e del comparto sicurezza. Interverranno il presidente del comitato locale dell'Associazione Internazionale della Polizia, il questore e il prefetto. Terza maratona di lettura organizzata in varie città del mondo a sostegno delle donne afghane e iraniane. A Trieste l'appuntamento è presso Eppinger Caffè alle 16.30, dalle 16.30 alle 18.30. L'evento è organizzato in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio, Egidio, la consulta delle associazioni femminili di Trieste, ACLI, Movimento dei Focolari e Gruppo Camminare Insieme. I dati del consorzio Alma Laurea, che raggruppa 80 atenei italiani, confermano che le laureate sono più numerose dei laureati e i loro voti sono più alti, ma i maschi occupano più posti di lavoro. La disparità di genere è vista dai banchi dell'università in servizio. Dall'osservatorio di Alma Laurea emerge che in Italia nel 2021 6 laureati su 10 erano donne, si laureano nei tempi e con una media di voti più alta rispetto agli uomini in tutti gli ambiti disciplinari, 104 la media contro 102. Eppure a 5 anni dalla laurea gli uomini occupati sono il 4% in più delle donne. La bilancia dell'occupazione e della retribuzione pende a favore degli uomini anche nei percorsi dove storicamente la presenza femminile è più marcata, come in educazione, formazione e in psicologia. Laddove però aumentano i servizi per l'infanzia, i disabili e gli anziani, aumentano anche la partecipazione e gli stipendi delle lavoratrici. Laura Chies, professoressa di politica economica all'Università di Trieste. Questo porterebbe sicuramente a un miglioramento delle possibilità per le donne, avere più tempo a disposizione da dedicare al lavoro per il mercato. Paesi nord europei fanno sempre da faro su questo, per cui possiamo dire che se la partecipazione al mercato del lavoro fosse qualitaria, anche il resto, cioè il lavoro di cura, sarebbe equidistribuito all'interno della famiglia e sul mercato. Ma per essere, diciamo così, meglio valorizzato sul mercato dovrebbe essere anche retribuito in modo diverso, no? Quindi dare valore al lavoro in questo senso avrebbe anche più spazio e darebbe anche più spazio agli uomini. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il bancone di un bar o di un ristorante come osservatorio privilegiato delle situazioni critiche che sfociano nella violenza di genere. A Trieste sarà proposta agli operatori dei pubblici esercizi una formazione che farà conoscere loro gli strumenti di prevenzione e tutela delle vittime di violenza. Il progetto Sicurezza Vera è proposto dal gruppo Donne Imprenditrici FIBE in collaborazione con la Questura e l'Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Trieste. Sarà presentato in mattinata all'Auditorium Voltella a Trieste. Sentiamo la presidente provinciale FIPE, Federica Suban. I pubblici esercizi si sono messi a disposizione, soprattutto il gruppo donne ha firmato questo protocollo con la Polizia di Stato proprio per rendere i pubblici esercizi dei locali non solo di accoglienza ma anche di sicurezza e anche presidi sul territorio, proprio per avere quell'occhio in più di attenzione con i clienti. Noi vediamo soprattutto nei bar il rapporto che si instaura con i clienti che frequentano giornalmente lo stesso luogo, perciò si possono ovviamente intravedere, diventiamo quasi dei confidenti, delle cose possiamo intravedere dei momenti di difficoltà, dei disagi. E non dimentichiamo che, essendo aperti ovviamente ad orari molto particolari, possiamo essere anche un luogo di rifugio in un momento anche in tarda serata o nella notte. Infatti proprio recentemente c'è stato un episodio in cui la formazione, ma più una consapevolezza su questa cultura del genere, è stata fondamentale per riuscire a salvare una persona. La faccio veramente un plauso a questa persona che si è resa conto di alcune, ovviamente di alcuni atteggiamenti che non andavano, e ha informato le forze dell'ordine, che poi sono riuscite a mettere in sicurezza un minore. Non basta appunto la consapevolezza, ma ci vuole una formazione per essere pronti a chiamare ovviamente in soccorso le forze dell'ordine. Cosa prevede la formazione e com'è organizzata? Sicuramente la formazione vedrà coinvolti direttamente non solo i titolari di pubblici esercizi, ma anche i loro collaboratori. Si utilizzeranno sia degli incontri via webinar che di persona, proprio per dare le informazioni da parte di chi opera ovviamente nel settore e ha più esperienza di noi. Un presidio del disagio sociale rappresentato anche dai sindacati, in questo senso FIALS FVG, Sindacato Operatori della Sanità, presenta, sempre in occasione della Festa della Donna, lo sportello di ascolto e consulenza legale per il contrasto delle situazioni di disagio e dei fenomeni di emarginazione sociale. Un servizio gratuito da fornire a chi ne ha bisogno. La presentazione a Caffè San Marco a Trieste alle 16.15. Carenza di manodopera specializzata e la ricerca di Confagricoltura, più ingressi di stranieri e formazione nei paesi d'origine, il tema affrontato in un incontro a Udine. È un'imprenditoria agricola alla prova del salto generazionale, quella riunitasi a Udine per domandare al governo regionale e nazionale maggior sostegno in una fase di transizione segnata dai tanti dubbi e dalle poche certezze. Il perdurare della siccità sta facendo rimandare fino all'ultimo le scelte sui seminativi. Confagricoltura chiede strumenti finanziari ad hoc per favorire il ricambio tecnologico e generazionale in un settore dove i capi d'azienda under 40 sono meno del 10%, ma sanno garantire più innovazione e competitività sul mercato. C'è bisogno, è stato sottolineato, di meno burocrazia anche nelle assunzioni. Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura. Abbiamo bisogno di un flusso di operai che arrivano da fuori Italia, visto che in Italia facciamo fatica a trovarne. Quindi il numero che generalmente arriva è superiore alle 200.000 unità, quindi riteniamo che un numero che oggi sia tra gli 80 e le 90.000 non sia sufficiente. I flussi generalmente servono un anno per l'altro, dovremmo assolutamente invece accorciare quelli che sono gli iter autorizzativi. Altra richiesta è la creazione di un albo regionale di cooperative virtuose che forniscano manodopera estera, così da evitare fenomeni di caporalato e consentire agli imprenditori di lavorare fin da subito con realtà affidabili. Philippe Turnval-Sassina, presidente regionale di Confagricoltura. L'argomento attuale è molto legato a quello che sono queste cooperative che forniscono lavoro alle aziende e come in qualche modo controllare che questo lavoro venga effettuato sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista proprio del lavoro nel modo migliore. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Le imprese della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa interrogano la politica in vista delle elezioni regionali. Oggi l'incontro nella sede di Udine è con Massimo Morettuzzo alle 18. Morettuzzo sarà poi ad Aquileia alle 20.30 nella sala consiliare per l'incontro pubblico dal titolo «Con la cultura si mangia». Legambiente pubblica il dossier 2023 Neve Diversa, che analizza gli effetti della crisi climatica sul turismo montano. In regione, come nel resto del paese, punta il dito sull'innevamento artificiale, ma anche su impianti dismessi e il previsto abbattimento di un bosco a Tarvisio. Se ne sono accorti anche i campioni delle montagne, 200 atleti che nei giorni scorsi hanno firmato una lettera alla FIS, Federazione Internazionale di Sci e Snowboard. Mai come oggi i cambiamenti climatici stanno minacciando la neve in quota. E non può non interrogarsi il mondo del turismo, che delle montagne vive, scrive Legambiente nel dossier 2023 Neve Diversa, che analizza la crisi climatica in corso partendo da un dato: il 2022 è stato l'anno più caldo e secco in oltre due secoli in Italia, e anche per il 2023 la situazione idrica sarà critica. Sulle Alpi è nevicato la metà rispetto alla media. Il dossier analizza regione per regione l'innalzamento delle temperature. In Friuli Venezia Giulia, a Forni di Sopra l'aumento maggiore, più 2,4 gradi centigradi nell'ultimo decennio. Rispetto all'innevamento artificiale, l'Italia è il paese alpino dove è più diffusa. La percentuale di piste innevate artificialmente è del 90%, seguono l'Austria con un 70%, la Svizzera col 50%, la Francia col 39%, la percentuale più bassa in Germania al 25%. Ma l'innevamento, scrive Legambiente, non è una pratica sostenibile solo per garantire la stagione sciistica. Rispetto agli impianti dismessi, per il Friuli Venezia Giulia si cita Sella Nevea, la pista slalom è stata chiusa per una slavina e mai più riaperta né smantellata. Rispetto agli impianti dove si sta facendo accanimento terapeutico, il caso di Tarvisio con la prevista pista Lazzaro, costo 2-3 milioni di euro con abbattimento di un fitto bosco di protezione di ungulati e gallo cedrone. Rispetto alla carenza d'acqua, nel 2022 è andato in crisi il bacino idrografico dei fiumi Meduna e Cellina nel parco delle Dolomiti Friulane. Meno 50% di piogge, secondo l'ARPA. Sono a secco da tempo, ben oltre le condizioni stagionali, anche i laghi artificiali da cui attinge il consorzio. Trieste, Anna Vitariani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel 2022 le presenze turistiche da Austria e Germania in Friuli Venezia Giulia sono aumentate del 12% rispetto al 2019, anno record pre-pandemia, sfondando il tetto dei 3 milioni di presenze. Sono i numeri portati dalla regione alla Borsa Internazionale del Turismo di Berlino. Per gli operatori del Friuli Venezia Giulia presenti alla Borsa nel Padiglione Italia, il ritorno a Berlino mira a incrementare ulteriormente le presenze, in particolare dei turisti tedeschi austriaci, ma anche a calamitare l'attenzione di altri paesi del centro-est Europa e del mercato interno, data la presenza di player nazionali. Ski pass ridotti e aperture di alcuni impianti prolungate fino al 26 marzo in Friuli Venezia Giulia, lo ha annunciato Promoturismo FVG per il finale della stagione turistica invernale. Da lunedì sui monti della regione si scierà i prezzi di bassa stagione, con lo ski pass giornaliero che passa da 39,5 euro a 28 euro. Inoltre Promoturismo FVG ha deciso di prolungare fino al 26 marzo la stagione nei poli di Forni di Sopra Sauris, Piancavallo, Ravascletto Zoncolan, Sappada, Forni a Voltri e Tarvisio, con una parte degli impianti aperti, mentre Sella Nevea proseguirà come da programma fino al 10 aprile. Da calendario la stagione invernale nei 5 comprensori si sarebbe dovuta chiudere 21 marzo ad eccezione di Sella Nevea. Per quanto riguarda il costo degli ski pass, da lunedì 13 a domenica 19 marzo sarà applicata la tariffa di bassa stagione, mentre nei giorni successivi, dal 20 al 26 marzo, tenendo conto della parziale apertura di impianti e piste, sarà applicato un ulteriore sconto del 30% nei comprensori interessati. Stretta sulla sicurezza a Pordenone, controlli serrati anche nelle aree a rischio, allontanamenti e divieti d'accesso in caso di reati. Le decisioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e le voci dei cittadini della zona della stazione. Sono qui, bevono, fanno confusione, se la gente passa in mezzo si infastidiscono anche. I residenti dell'area, compresa tra la stazione e le vie limitrofi a ridosso del centro storico di Pordenone, lamentano da tempo la presenza di gruppi di ragazzi che si rendono protagonisti di liti, schiamazzi e degrado, in alcuni casi anche di aggressioni, episodi che turbano la tranquillità del capoluogo e nei confronti dei quali il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Domenico Lione, ha deciso di intervenire con controlli coordinati tra forze dell'ordine più incisivi e visibili, anche con l'ausilio dei cani antidroga, sorvegliate speciali, alcune zone sensibili di accesso alla città e di maggiore aggregazione e, se necessario, vietando anche l'accesso a determinati luoghi agli autori di condotte illecite. Dispiace, io ho paura di uscire la sera e che io sono pordenonese, da sola non uscirei più. Sporcano dappertutto, si mettono per terra qui, quindi è un po' un problema. Quello che vedo è semmai degrado, gente che getta, i ragazzi gettano immondizie e cose del genere. Io penso che siano soltanto dei giovani che in qualche maniera vivono dei disagi, penso e presumo che tutto vada ridimensionato. I reati in città sono calati del 10% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Vedo sempre le forze d'ordine presente, quindi non posso lamentare niente. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Gorizia rende merito alle proprie eccellenze con il premio Santi Ilario e Taziano, che nel 2023 sarà assegnato a Paolo Camossi. Nella motivazione si legge che il riconoscimento viene attribuito a Camossi per il suo infaticabile percorso nel mondo dello sport, sia in qualità di atleta che di tecnico, tanto da conquistare lui stesso titoli italiani ed europei, da laurearsi campione mondiale indoor di salto triplo nel 2001, fino a diventare l'allenatore del recordman e olimpionico Marcel Jacobs. Riconoscimenti anche alla memoria di Omar Monastier, direttore del Piccolo e Messaggero Veneto, a Lorenzo Crobe, fondatore della Torrefazione Goriziana, e alla ASD Pro Gorizia nel 100° anniversario di fondazione. La cerimonia di consegna si terrà al Teatro Verdi giovedì 16 marzo, giornata in cui Gorizia festeggia i suoi patroni santi Ilario e Taziano. Maria Chiara ed Elena Paolini, impegnate da tempo in una battaglia contro gli stereotipi della disabilità, inaugureranno oggi la serie di incontri organizzata dall'Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo dal titolo Tutela Diritti, è dedicata a famiglie e professionisti. Maria Chiara ed Elena Paolini parleranno di disabilità e abilismo nel corso del webinar che avrà inizio alle 18 sulla piattaforma Zoom. Sentiamoli in questo servizio. Ciao, siamo Elena e Maria Chiara, due sorelle di Senigallia, e siamo entrambi disabili e scriviamo sul nostro blog Witty Wheels di disabilità in chiave sociopolitica. Ci basiamo sui disability studies e sulla teoria e la pratica femminista e ci occupiamo di formazione sull'abilismo, la discriminazione verso le persone disabili in scuole, università, realtà associative e lavorative. Maria Chiara ed Elena Paolini sono le anime del progetto Witty Wheels, letteralmente ruote spiritose. Sono impegnate nel contrasto all'abilismo, un sistema che troppo spesso non mette al centro le voci delle persone disabili sulle questioni che le riguardano. Abilismo, stigma o discriminazione, un atteggiamento che alla base è all'esclusione ma arriva a vertici di cruda violenza diretta. E questo è il tema sul quale le sorelle vogliono far riflettere i partecipanti al webinar organizzato da ABC, Associazione Bambini Chirurgici del Burlo, con l'obiettivo di dare voce a tutte le persone che partecipano al processo di crescita dei bambini e dei ragazzi con disabilità. Maria Chiara, classe 91, ha studiato lingue e letteratura inglese e araba e didattica dell'italiano come lingua straniera, mentre Elena, del 95, ha studiato relazioni internazionali e diritti umani e scienze politiche. Per loro è fondamentale il ruolo dei media nella rappresentazione della disabilità. Siamo ovviamente circondati dai media e se i media rappresentano la disabilità in un certo modo, chiaramente la cultura ne sarà influenzata ed è importante quindi saper analizzare quello che vediamo. Per iniziativa ministeriale, l'8 marzo l'ingresso ai luoghi della cultura statali per le donne è gratuito. In regione si tratta del Museo Storico di Miramare, il Museo Archeologico di Aquileia e il Museo Archeologico di Cividale. Anche alcune sedi gestite da ERPAC FVG saranno ingresso gratuito per tutte le donne, come i musei provinciali di Borgo Castella Gorizia, il Museo della Grande Guerra, la Galleria d'Arte Contemporanea Spazzapan e il Magazzino delle Idee a Trieste. Qualche altro appuntamento dell'8 marzo tra i numerosissimi proposti in regione. La CISL propone al Teatro Modena di Palmanova alle 10.30 lo spettacolo La Scelta, tratto dalla giovane Tina Anselmi di Mauro Pitteri. Si tratta della storia di una donna che ha dedicato tutta la vita alla democrazia e alle altre donne. Vite controcorrente, donne che hanno raggiunto traguardi che sembravano impensabili, è l'evento che prevede le letture interpretate dalla compagnia teatrale Nuda Scena e la musica eseguita dal Pordenone Vocal Ensemble al Teatro Arrigoni a San Vito al Tagliamento alle 20.30. Donne rivoluzionarie in cerca di guai, l'inaugurazione del nuovo ciclo degli spettacoli organizzata dall'Associazione Culturale A Delinquere è stata affidata all'evento dal titolo A distanza di un cazzotto, Letizia Battaglia, fotografa di mafia, nella Sala Civica Comunale di Cormons alle 20.30. L'attrice musicista Ida Tagliente, la cantante compositrice Elsa Martin e l'illustratrice grafica Giulia Spanghero, tre artiste riunite per un viaggio narrativo e musicale che si sviluppa attraverso storie provenienti da varie parti del mondo. Lo spettacolo Donne che cambiano il mondo andrà in scena al Teatro Pasolini di Cervignano alle 20.45. L'associazione Non Una di Meno Trieste ha organizzato un corteo con partenza alle 17.00 7.30 da Foro Ulpiano, a 6 anni dal primo corteo organizzato a Trieste, che segnò la nascita del nodo triestino del movimento femminista transnazionale. Con lo sciopero, hanno scritto in una nota, si fermerà non solo il lavoro salariato, ma anche il lavoro domestico e di cura che grava principalmente sulle spalle delle donne. Restiamo a Trieste, ironiche e provocatorie, riconosciute a livello mondiale per i loro messaggi contro discriminazioni di genere, sono le Guerrilla Girls, che, alle quali è dedicata la mostra che sarà inaugurata alle 18.30 alla stazione Rogers di Trieste. L'evento è organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi di Genere dell'Università di Trieste e curata da Sergio Adamo, protagonista insieme a Marcella Serli dei dialoghi e altre invenzioni su arte, femminismo e sovversione al Teatro Miela alle 19.30. Madrine della mostra saranno Adriana e Tatiana Bucci, testimoni della Shoah deportate da bambine ad Auschwitz. Lo sport, l'Udinese comunica di aver tesserato il calciatore Marvin Zegelaar, il difensore olandese di ritorno in bianconero, ha firmato un contratto fino al termine della stagione sportiva in corso e va a integrare il reparto arretrato a disposizione di mister Andrea Sottil. Per lui si tratta quindi della quinta stagione in bianconero. Nelle precedenti 4 ha totalizzato 66 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol. Biathlon, la prima medaglia per gli atleti regionali ai campionati mondiali juniores che si stanno disputando in Kazakistan. La tarvisiana Astrid Plöc ha vinto l'argento nella staffetta femminile 3x6 km. La portacolori dell'esercito ha completato una prima frazione senza giri di penalità e con due sole ricariche utilizzate al poligono, nonostante le condizioni proibitive a causa della nevicata in corso. La sua compagna Carpella ha perso una posizione, la terza frazionista Gautero ha confermato il secondo posto. Quinta la squadra maschile che schierava due fornesi, Cesare Lozza e Alex Perissutti. Siamo alla rassegna stampa. Il Piccolo di Trieste riporta in prima pagina la notizia dello sfratto da Porto Piccolo della società che lo gestiva. Spazio anche all'omicidio-suicidio dei due anziani nel capoluogo e la lettera, di cui non si conoscono i contenuti, inviata al loro legale qualche giorno prima della tragedia. In prima anche la sanità, la privacy di mezza, i referti online, scatta la protesta dei medici di base, referti sanitari inaccessibili con le nuove disposizioni, appello dei medici alla regione. E il turismo, spiagge, trekking e gite in cantina riportano in regione tedeschi e austriaci. Nell'economia, Fincantieri, regge la frenata globale, crescono ancora ricavi e ordini. Nella cronaca locale anche la notizia che la trasmissione 4 Hotel, condotta dallo chef Bruno Barbieri, vedrà in gara alberghi di Trieste. Il Messaggero Veneto di Pordenone apre con il titolo Nuovo stadio, due opzioni, tramonta la soluzione Edil Nord. La cronaca nella fotonotizia in taglio alto si riferisce all'incidente nel Trevigiano in cui persero la vita due ragazzi, guidava un ragazzo dunque di Pravis Domini. Titolo, la disperazione del padre di Michele, non dovevano prestargli l'auto. Nella foto invece a centro pagina si parla di Comic Art, il PAF di Pordenone diventa International Museum. C'è un solo titoletto di cronaca sulle tantissime richieste per avere i cassonetti condominiali. Il Messaggero Veneto del Friuli dedica il titolo principale alla Donata Alpina che si terrà in maggio. A Donata Alpina scuole chiuse, il comune chiederà di limitare lo stop solo agli istituti del centro, fermi anche mercati e palestre. Il tema è anche approfondito all'interno del giornale, nella pagina dedicata alla cronaca di Udine. Anche qui la fotonotizia in prima pagina, in taglio alto, è dedicata ad un incidente. Dopo il tamponamento finisce con l'auto sui tavolini della pasticceria in via Martignacco, vediamo dunque l'auto nella foto. A centropagina invece la ciclista Silvia Piccini che morì a 17 anni, la cronaca del processo, investì e uccise una promessa del ciclismo, un anno e 4 mesi, insorge il mondo dei corridori. La cronaca sempre in prima pagina, vogliono abbattere un cedro, i vicini chiamano i vigili e poi a Udine mamme e famiglie avranno a disposizione 60 parcheggi rosa. All'interno del giornale troviamo anche la notizia sulla sanità, sull'accordo per turni straordinari e festivi per infermieri amministrativi, tecnici e operatori sociosanitari. Si passa da 3 a 4 euro l'ora e da 15 a 20 euro per le domeniche. L'azienda raccoglie le richieste della UIL e del Nursind. Nella prima pagina dell'edizione isontina del Piccolo, lo sviluppo del porto di Monfalcone, una banchina più lunga, ma la società FHP pretende una concessione di 40 anni. L'amministratore delegato russo, aperture sull'investimento ma con solidità del layout attuale, l'Authority invita chi vede un'utilità nell'opera a presentare un project financing. Il capocronaca di Gorizia è dedicato alla mobilità, approda in giunta il primo biciplan più zone 30, Dossi, Limiti e Tir in città. Il comune sta per varare provvedimenti contro la velocità, non ci sarà un nuovo piano del traffico, prevista solo una revisione. Il Gazzettino di Udine, alla Dacia Arena, gli europei, la candidatura in contrapposizione alla Turchia riguarda l'edizione sportiva continentale del 2032. Nella fotonotizia, la macchina organizzativa degli alpini alla Dunata, il comune chiude i bivacchi nei parchi. La cronaca ci porta poi a San Pietro al Natisone, accende la stufa, ma si ustiona, grave una settantenne. Poi turismo, tornano in regione tedeschi e austriaci ed elezioni, la battaglia per la sanità spacca le coalizioni. Lo sport, a fotopagina udinese, il serbo Samardic chiede spazio e il mito Bottecchia con 5 sfide giovanili. La corsa a tappe riservate agli esordienti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il Gazzettino, nell'inserto dedicato a Pordenone, mette la cronaca in primo piano, ancora con lo schianto mortale di Gorgo al Monticano, la sterzata, la fuga e la terza auto perizia sulla collisione. Volevano impedire il sorpasso. La fotonotizia: Villa Ottoboni perde la tutela, lettera da Roma dopo 63 anni. La cronaca: arrestato a 15 anni dopo la rapina al supermarket, ha gettato a terra una guardia giurata dopo aver rubato bottiglie di alcolici. E per lo sport, con Stefani per la B, un sogno in 8 gare. In panchina del Pordenone dunque c'è il nuovo allenatore Mirko Stefani. Con un recital dedicato al repertorio di Ravel, e Roberto Cominati sarà protagonista a Trieste, Teatro Miele, alle 20:30 della stagione della Chamber Music, Cromatismi 2.0, e attraverserà 400 anni di tradizione musicale della tastiera iberica, il concerto dell'organista Jorge Garcia Martin. La tappa di oggi dei concerti al Conservatorio Tartini di Trieste, appuntamento alle 20:30. Ed è tutto per questo notiziario, redatto e condotto da Eva Ciuc e Francesca Vigori, assistenza tecnica di Federico Coman, Manuel Bussani in redazione. L'informazione radiofonica torna alle 12:30. Grazie per la cortese attenzione, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.